Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi partiamo dalla TV. È tanta, infatti, la TV prodotta, ma poca quella esportata. L'Italia non manda i suoi prodotti fuori dai confini, come fanno invece Francia e Regno Unito, lo dicono i dati del Consiglio d'Europa. Produciamo tanta TV, ne esportiamo troppo poca. Non è solo un luogo comune, a confermarlo sono i numeri. Non solo se consideriamo il rapporto con gli Stati Uniti, ma anche entro i confini europei. Dei 7.372 film europei in programmazione nel biennio 2014-15 su 125 canali TV, in chiaro e a pagamento in 17 paesi dell'Unione Europea, il 17% erano produzioni italiane, ma solo il 25% circa ha varcato i confini nazionali. Questi alcuni dei dati contenuti nel rapporto Film in televisione, origini, anno di produzione e circolazione, pubblicato dall'Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo, organo del Consiglio d'Europa. L'Italia è così seconda solo alla Francia per numero di film prodotti e mostrati sugli schermi europei. La Francia è al 20%. Sia Germania che Gran Bretagna hanno realizzato il 14% dei film andati in onda sul piccolo schermo. Ma l'Italia resta molto indietro quando si considera la circolazione dei film al di fuori dei confini nazionali. A farla da padroni sono francesi e inglesi con il 70% dei film esportati in altri paesi, seguiti dalla Germania con il 65% circa, mentre l'Italia si arresta solo al 25%. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora torniamo invece al grande tema di queste settimane, l'emergenza migranti, infatti, che ha messo in discussione anche i criteri di calcolo della spesa per l'accoglienza. E allora si inquadra in questo contesto lo scontro verbale in corso tra Budapest e Roma, tra Orban e Matteo Renzi. Il servizio. Continua il braccio di ferro tra Bruxelles e Roma sulla legge di bilancio e in particolare sulle cifre e i criteri con cui si fanno i calcoli in Europa. Il peso del costo dei migranti sul bilancio italiano stimato dal testo della manovra è pari allo 0,16 punti di PIL per l'emergenza profughi in Italia e allo 0,02 per gli investimenti nei paesi di transito e origine, 0,3 punti invece per la ricostruzione e la prevenzione post terremoto prima del nuovo sisma. Questo nelle 70 pagine inviate a Bruxelles, confermate poi nelle risposte in 4 pagine inviate ieri sera dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan, con cui il governo italiano ha respinto i rilievi mossi dall'Unione Europea. In particolare sui migranti l'Italia contesta il fatto che vengano scomputate dal deficit le spese legate ai migranti solo considerando l'aumento dei costi anno su anno e non i costi complessivi. Tanto per fare due calcoli, la spesa complessiva è più che raddoppiata nell'ultimo anno in molti paesi europei, ma dipende dal metodo di calcolo. Secondo l'OCSE, per esempio, nel 2015 la Germania è il paese che ha speso di più per la gestione dell'accoglienza con 2,7 miliardi di euro. L'Italia era al quarto posto. Di fatto però in Italia la quota versata per ogni immigrato può variare da un minimo di 35 euro a un massimo di 45, moltiplicando 45 euro per gli 80.000 profughi presenti in Italia nel 2015 per 365 giorni si arriva alla cifra di quasi 1 miliardo e 100 milioni. E l'Italia, scrive nella replica Padoan, ha salvato dall'inizio della crisi quasi 500.000 di persone in mare, per cui per il prossimo anno vuole che siano riconosciuti tutti i costi legati ai migranti fino ad ora, 3,8 miliardi, che ai ritmi attuali arriverebbero però a 4,2. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La regione belga della Vallonia ha intanto trovato l'accordo nei negoziati col governo sul trattato economico commerciale euro-canadese. Le assemblee regionali del Belgio voteranno entro la mezzanotte di oggi sul testo modificato, dopodiché la palla tornerà ad Europa e Canada dopo il clamoroso stop alla ratifica di una settimana fa. Per l'europarlamentare Alessia Mosca, membro della Commissione Commercio Internazionale a Strasburgo, si aprono interessanti opportunità. L'ha intervistata Sergio Nava. Sui prodotti che ci stanno particolarmente a cuore, per la prima volta il governo canadese ha accettato di inserire qualcosa che per loro ideologicamente era assolutamente mai accettabile, cioè il riconoscimento delle indicazioni geografiche. E abbinato con il fatto che c'è un abbattimento del 10-15% delle tariffe su alcuni prodotti alimentari, tra cui i formaggi, tra cui i prosciutti, questo ovviamente può dare ai nostri produttori grandi opportunità. Bene, cari amici, con questo è tutto per questo appuntamento naturalmente. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora e adesso lo sport e come sempre siete tutti convocati. A domani! Europa 24. in collaborazione con Euronet Plus.